1, 2, 1, 2, 3. Get it down, ba do do. Get it down, ba pow. Get it down, ba ba do do. Get it down. So che dura settimana, ma qui di lavoro non ce n'è. È proprio una roba strana. La gente mi guarda come se. Mi scusi signorina, servirebbe anche mezzo chilo di jazz. Sono appena sceso dal cielo, Claude, velena questo cuore che fa shabidi di di down. Sono appena vaso dalla zona blu e come un'orchestra nella testa non la smette più. Brioche cappuccino, brioche cappuccino, brioche cappuccino. Questo è l'importante, non scordarti mai. Brioche cappuccino, brioche cappuccino, brioche cappuccino. Bar della stazione inverno, 95. Mettersi a urlare non si può, è un vicolo senza uscita, la chiamano vita invece no. Get it down, bow, bow, bow. Get it down, bow, bow. Get it down, bow, bow, bow. Get it down. Mi scusi signorina, c'è un locale, una cantina, almeno un burrito bar con un po' di musica bella strappa, budella che ballare ti fa, anche se tu non vuoi. Ci ho sputato l'anima a venir qua giù, prima l'inverno, poi la nebbia, adesso pure tu. Brioche cappuccino, brioche cappuccino, brioche cappuccino. Questo è l'importante, non scordarti mai. Brioche cappuccino, yeah. Brioche cappuccino, brioche cappuccino. Bar della stazione inverno, 95. Get it down, oh, but you don't. Get it down, pa-pow. Get it down, oh, but you don't. Get it down. Grazie. Grazie.